Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi borse deboli, nulla di drammatico rispetto all'ultimo mese e mezzo, meno 1,80% Milano, meno 1,80% Francoforte, meno 1,40% Parigi, meno 1% Londra, gli Stati Uniti con sul Dow Jones meno 1% anch'essi. Tra i titoli segnaliamo, in questo sali e scendi, c'è chi la chiama rotazione. Comunque, Banco Popolare meno 4,30, Pop Emilia Romagna meno 4, Anima Holding meno 3,50, Ferragamo meno 3,30, Tenaris meno 3,30, Pop Milano meno 3,20, il 3% lo perde Fiat Chrysler. Bene oggi però, nonostante il calo complessivo, Monte dei Paschi più 1,40 e Saipem più 1%, petrolio anch'esso oscilla però è stabile oggi sopra i $30 al barile, per la precisione a $32 più o meno $32.50 al barile. Parleremo di cosa? Beh, intanto di un annuncio che sta muovendo le borse, ma non i titoli, le borse vere e proprie, e mi riferisco alle trattative per una fusione tra la Borsa di Londra e a cui appartiene anche Milano, il gruppo London Stock Exchange, quello di cui fa parte la Borsa di Milano, e la Borsa di Francoforte. La Deutsche Börse, scusate la mia pronuncia cattiva sul tedesco, dove tra l'altro gli azionisti della Borsa di Londra avrebbero il 46%, il 45% del nuovo gruppo, quelli della Borsa di Francoforte il 54%. La notizia è particolarmente interessante perché arriva nel momento in cui è giorni che parliamo di Brexit. Non c'entrano nulla le due cose, la Borsa di Londra si può fondere con la Borsa di Francoforte, ma è oggettivamente interessante notare come, mentre ci sono spinte a lasciare l'Unione Europea in Gran Bretagna, dall'altro l'integrazione finanziaria dovesse essere confermata, la trattativa e soprattutto andare a buon esito, beh, la piattaforma finanziaria sarebbe sempre più una piattaforma quasi unica europea. Parleremo di questo, ma parleremo anche e soprattutto dei dati diffusi oggi da The European House Ambrosetti su dati della CGIL sul caporalato, caporalato che è l'antilavoro ed è concorrente, come il nero è la concorrenza scorretta alle imprese. Il caporalato è una concorrenza scorretta a tutte le imprese legali e che stanno e pagano anche gli oneri della legalità. Lo dico perché oggi il dato che emerge dal rapporto, appunto, European House Ambrosetti, di 400.000 lavoratori sfruttati, 80% dei casi sono stranieri. Questo lo dico per chi dice: beh, gli stranieri rubano il posto agli italiani. Sì, diciamo che lo rubano soprattutto nel caporalato. Meno di 2,50 euro all'ora per un lavoro sostanzialmente che va più dalle 11 alle 13 ore di lavoro al giorno, 25-30 euro di media. Questi sono i dati, chiamiamoli così, la denuncia lanciata oggi, ma parleremo anche del tema che in redazione hanno voluto chiamare Cara Roma ti scrivo. Perché? Perché ieri l'Italia, nel famoso paper, aver scritto all'Europa, cioè ha presentato un documento l'Italia in cui, che dovrebbe essere la piattaforma per trattare con Juncker quando arriverà venerdì a Roma. Documento che noi ieri abbiamo definito abbastanza morbido, nel senso che si chiedono gli Eurobond, si chiede che venga rispettato l'accordo di Maastricht non solo sui deficit da ridurre ma anche sui surplus di bilancio da ridurre nel caso della Germania, si dice andiamo avanti con l'unione bancaria, però facciamola tutta questa unione bancaria, non solo il bail-in, non solo il salvataggio interno che è voluto fortemente dalla Germania dopo che ha salvato le sue banche, ma tutta l'unione bancaria. È previsto infatti che vi sia una garanzia europea sui depositi bancari, sulla parte fino a 100.000 euro per intenderci dei depositi bancari, e su quello la Germania nicchia perché ha paura che in caso di fallimento di una banca di un altro paese dovranno pagarne anche i contribuenti tedeschi. Dico che è un rapporto, è un documento molto morbido, non viene chiesto nulla per l'Italia, non c'è la richiesta di maggiore flessibilità, di maggiori margini, nulla di tutto questo. Ebbene, domani, quindi alla vigilia quasi dell'incontro tra Juncker e Renzi, La Commissione europea diffonderà il Country Report, il rapporto sugli squilibri macroeconomici dell'area dell'Unione europea, compresa l'Italia. Secondo anticipazioni di stampa, il rapporto disegnerebbe un'Italia che fa progressi grazie alle riforme del mercato del lavoro, delle banche e dell'istruzione, alla riforma della scuola, tuttavia solleva nuovi dubbi sull'opportunità di ridurre il taglio delle tasse sulla casa, la famosa IMU levata, su cui noi da sempre, ma anche devo dire come giornale e tutti gli ospiti che abbiamo avuto, abbiamo sempre sollevato molti dubbi per un motivo molto semplice: si chiedeva di usare le stesse risorse per ridurre le tasse su chi il lavoro lo fa, lavoro dipendente, o su chi il lavoro lo dà, quindi anche tasse sull'IRAP, IRES e IRPEF. In realtà si è preferito levare le tasse sostanzialmente a chi ha un immobile, con un effetto a nostro avviso debole sui consumi interni, e dal punto di vista elettorale, se si andrà a votare alle amministrative, dubito che si ricorderanno di questo gli elettori. Ma soprattutto levare l'IMU sulla casa è un effetto una tantum e non è neanche così corretto, perché va a elevare soldi a chi magari non ha un problema di potere d'acquisto. Più corretto per rilanciare l'economia sarebbe stato ridurre IRPEF e IRES, ma è una vecchia polemica. L'Unione Europea torna e dice no, è stato sbagliato levare le tasse sulla casa, e poi mette in dubbio l'efficacia della spending review, su cui ieri abbiamo avuto dei dubbi anche noi. Il governo Renzi ha sostenuto che la spending review è stata anche più alta di quella di Cottarelli. A noi non ci risulta, nel senso che i 25 miliardi individuati dal governo e da Renzi si esplicheranno anche nel 2016. Non abbiamo capito dove, a parte la Consip, vi siano dei risparmi mirati tipici della spending review. Domani dovremmo avere ospite il responsabile della spending review, Gutgeld, che ha detto no, io vi voglio spiegare perché in realtà i dati sono confusi. Alcuni mi stanno scrivendo sul caporalato, che è l'unica arma per i produttori agricoli per sopravvivere. Abbiate pazienza, sì, ma non è che possiamo accettare gente a due euro e mezzo all'ora per 12 ore perché è l'unico modo per raccogliere pomodori. Fate una battaglia sui pomodori. Oggi c'è una di nuovo una polemica sulle quote del latte. Gli agricoltori del latte hanno fatto una battaglia, le stalle sono di nuovo KO, stalle alla produzione, ma crollano domande e prezzi. È tutto il mondo della distribuzione moderna e il presidente Francesco Pugliese che dice attenzione, il mercato del latte vaccino è sempre più complesso e a rischio. La Coldiretti che denuncia 1000 stalle chiuse. In montagna la maggior parte di differenza tra prezzo della stalla e al consumo, il 60% di queste stalle erano appunto in montagna, per cui ci sono altri modi, non ricorrere al caporalato, per rivendicare anche i diritti degli agricoltori. Di questo parleremo, dicevo, ma anche della lettera e delle critiche che questa lettera, questo documento che domani sarà ufficiale, muove all'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. No, io vedo che c'è chi mi scrive: mio figlio lavora a McDonald's, prende 3,30 euro. Attenzione, il caporalato si definisce non solo per il tipo di stipendio, anche per il fatto che non vi sia nessun diritto, nessun contratto, tutto lavoro in nero, e per le ore di lavoro svolte. Per cui non è solo lo stipendio orario, Sì, sì, abbiamo cambiato la base musicale delle headlines, la cambieremo ancora, rinnoviamo anche le basi. Su. Andiamo avanti invece per quello che riguarda, al di là della fusione Londra-Francoforte, oggi ci sono dati anche sull'economia tedesca che conferma un PIL nel quarto trimestre in crescita dello 0,3%, ma frena l'export. A questo punto la Germania dovrebbe crescere, nel 2015 dovrebbe essere cresciuta dell'1,3%. Le esportazioni meno 0,6%, sotto le attese, ha frenato infatti la Cina e tutte le economie emergenti. E poi l'indice di fiducia delle imprese tedesche è calato a 105 punti, peggio delle attese. A Alcuni mi chiedono se è vero che l'Italia resti sotto osservazione nella bozza del rapporto. Sì, da quello che si è visto, questo rapporto, che domani sarà ufficiale, l'Italia, assieme a Francia, Portogallo e Bulgaria, è uno dei paesi dove con squilibri macroeconomici importanti. Anche se i toni, si sottolinea nelle bozze diffuse, sono abbastanza incoraggianti e positivi, l'Italia resta sotto osservazione per i suoi squilibri macroeconomici, in primo luogo chiaramente il debito, ma non solo. E allora, visto che parlavamo di caporalato, c'è un'altra notizia che riguarda la vita di tutti i giorni degli italiani. La diffonde Cittadinanza Attiva, il Tribunale per i diritti del malato. Non è nuova, nel senso che in queste settimane abbiamo visto vari dati che vanno a confermare, ahimè, che la crisi e la crisi del potere d'acquisto colpisce anche le spese mediche e il curarsi. Un italiano su 10 rinuncia alle cure per il ticket, ma attenzione, anche per le liste d'attesa, che ogni tanto abbiamo raccontato nella nostra poco invidiabile classifica, soprattutto nella sanità al sud, non solo, ma soprattutto nella sanità al sud. E quindi praticamente un cittadino su 4 lamenta difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie per le liste d'attesa e per il ticket. In particolare si lamentano di attendere troppo per le visite e esami i cittadini calabresi, siciliani, ma attenzione, marchigiani, liguri e anche del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Questo è il rapporto di Cittadinanza Attiva. La rinuncia sono più alte al sud, 11,2%, al centro il 7% decide di non curarsi, al nord solo il 4%. Però attenzione, al nord una visita ortopedica in tempi minimi si fa in un mese, al centro 2 mesi e aumenta il dato al sud. Una visita cardiologica si va da un minimo di 42 giorni nel nord-ovest a un massimo di 88 nel centro Italia. E allora, restando all'Italia, su un altro settore fondamentale del nostro Made in Italy, mi riferisco alla moda, visto che adesso stanno per iniziare le giornate milanesi della moda. Oggi c'è il rapporto di Mediobanca sul settore moda italiano. E beh, i principali gruppi della moda in Italia confermano ancora un miglior andamento rispetto alla grande manifattura per crescita, redditività e solidità. In particolare il fatturato è cresciuto nel 2014 del 5,8% contro una media dello 0,8% nella grande manifattura, e poi i ricavi crescono bene, più 27%, le 15 aziende più grandi crescono del 30%, l'occupazione delle aziende che si occupano di moda, che producono moda, cresce del 22,7% con una spinta ancora più forte nei marchi top, diciamo, di gamma, più 34%. (Music) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E allora, partiamo da questa notizia un po', ripeto, singolare. Nel momento in cui non si capisce se la Gran Bretagna voterà sì o no alla permanenza nell'Unione Europea, sapevamo già che la City e tutto il mondo della finanza britannico è assolutamente a favore della permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, ma insomma oggi arriva anche la notizia di una trattativa in corso per una fusione vera e propria tra la Borsa di Londra, che vuol dire anche la Borsa di Milano, e la Borsa di Francoforte, cioè le due piazze più grandi d'Europa. Ancora su IMU e TASI per far ripartire il mercato immobiliare, ma guardi, IMU e TASI non fanno ripartire il mercato immobiliare, ma poi è un problema di scelte, cioè uno può essere favorevole o no, ma l'IMU e TASI, l'IMU quando era fatta bene, perché poi c'è un problema di catasto immobiliare da noi, ma era l'unica forma di patrimoniale che tu hai? Cioè, voglio dire, chi ha una casa di grande valore paga un po' di più rispetto a una casa di minor valore anche sul mercato, perché si dice, vabbè, evidentemente se hai quella casa lì sei riuscito a fartela. Poi non mi può dire, l'ho ricevuta in eredità. Ho capito, una casa di grande valore ricevuta in eredità vuol dire che viene da una famiglia ricca. Cioè, insomma, il patrimonio conta. L'Europa chiede che venga tassato un po' di più il patrimonio, un po' di meno il lavoro. Poi uno può non essere d'accordo su questo, ma noi siamo un paese che tassa moltissimo il lavoro e molto di meno il patrimonio, ok? Allora, è chiaro che una manovra su IRPEF, tra l'altro andavi a toccare le buste paga, cioè gente che non evade neanche un euro perché era ritenuta la fonte, e agevolavi magari un po' di più le assunzioni. Insomma, sono scelte. Si è ritenuto che per motivi elettorali che fosse meglio levare l'IMU. E non c'è un motivo economico che porti a dire che con l'IMU riparte l'economia, ripartono i consumi più che non riducendo l'IRPEF. Non ce n'è uno e non l'abbiamo letto da nessuna parte. Per cui questo... Allora, dicevo, trattative tra la Borsa di Londra e Francoforte. Alessandro Merli, tra l'altro il titolo della del London Stock Exchange è balzato del 17%, quello della Deutsche Börse, non so come si pronunci, del 7%. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera. Evidentemente i mercati sono convinti che si tratti di una buona cosa, questa possibile fusione. Del resto non arriva come una sorpresa per nessuno, visto che questi accordi fra le borse sono un po' carsici, appaiono e scompaiono. Ricordiamoci che il primo tentativo di una joint venture tra queste due borse risale al 2000. Poi nel 2004 la borsa di Francoforte tentò di scalare quella di Londra e venne respinta, così come venne respinto il Nasdaq. Londra preferì rimanere da solo. Nel 2007 fece la fusione con Milano. Nel 2012 la Deutsche Börse ha tentato di fondersi con il New York Stock Exchange Euronext, che comprende New York, Parigi, e questo fu bocciato dall'antitrust europeo. Quindi diciamo che questi tentativi di alleanze non sono nuovi. Di nuovo, però evidentemente Francoforte e Londra assieme, diciamo con l'aggiunta di Milano e anche dell'MTS, se vogliamo, del Monte Titoli, è chiaro che in Europa crea un player molto importante. Ecco, Alessandro, spieghiamo a tutti che cosa servirebbe, mentre vedo che per quello che riguarda invece solo la Gran Bretagna e l'ipotesi di un'uscita dall'Unione Europea, oggi la Bank of England, la banca centrale inglese britannica, ha annunciato che sta lavorando a un piano di intervento in vista del referendum per mantenere la sterlina stabile. Cioè c'è il timore che se il referendum dovesse votare l'uscita, diciamo, della Gran Bretagna dell'Unione Europea, la sterlina risentirebbe parecchio. Già in questi giorni, settimane, si è mossa, ha toccato nuovi minimi su euro e yen, ma anche dollaro. Tornando invece a noi, perché si fanno queste fusioni? Ma diciamo che almeno quello che dicono le due società è che i loro prodotti sono complementari, le aree di operazione sono complementari, anche le aree geografiche, quindi in questo modo darebbero vita a una società in grado di competere con grandi americani come il Chicago Mercantile Exchange, l'Intercontinental Exchange e con l'Hong Kong Exchange and Clearing, che è la più grande borsa del mondo. Ma non è solo una questione di dimensioni. Diciamo che da un lato negli ultimi anni, cioè dopo la grande crisi finanziaria globale, la regolamentazione ha spinto verso l'accentramento degli scambi in borsa, soprattutto per quello che riguarda i derivati. D'altra parte però sono sorti molti, diciamo, exchange o mercati alternativi creati soprattutto dalle grandi banche, che si fanno gli scambi fra di loro senza cercando di non passare appunto dalle borse tradizionali. E quindi credo che sia anche per rispondere a questa concorrenza sia globale ma anche di questi, chiamiamoli così, mercati alternativi. Per cui dice, c'è quelle che gli esperti chiamano sinergie, cioè insomma, ci sono e anche delle sovrapposizioni in alcuni casi, ma questo poi serve nei rapporti di forza o è solo, diciamo, per ridurre sovrapposizioni e prodotti simili? Ma sicuramente ci saranno dei tagli di costi che possono fare. Quello che sostengono le due società è che essendo non molto sovrapposte ma molto complementari, avrebbero una posizione competitiva più forte nel mercato globale. Come sempre in queste fusioni, queste affermazioni, diciamo, nel momento in cui vengono annunciate, vanno poi verificate alla prova dei fatti. Adesso credo che Deutsche Börse entro il 22 di marzo debba fare un'offerta formale. Alla fine dell'accordo dovrebbero uscire gli azionisti Deutsche Börse con circa il 54% del capitale della nuova società e quelli del London Stock Exchange con il 43%. Staremo a vedere su questo. Sentiamo anche il commento del vice direttore del Sole 24 Ore, nel ringraziare chiaramente Alessandro Melli, Alberto Orioli, perché fa parte dei 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non è solo una notizia di finanza. La Borsa di Londra e quella di Francoforte hanno confermato di voler realizzare una fusione tra pari per creare un mercato europeo che diventerebbe anche uno dei più grandi del mondo, in grado di competere con i grandi circuiti americani e asiatici. Cerchiamo però di capire di cosa stiamo parlando, anche perché in queste ore accadono cose molto irrazionali, come il no all'Europa pronunciato dal sindaco di Londra, che ha fatto crollare la sterlina ben oltre gli effetti che ha avuto finora il quantitative easing della Banca Centrale Europea. Del London Stock Exchange, che ha una storia più che bicentenaria, fanno parte dal 2007 anche Borsa Italiana, compresa Monte Titoli, la società di post trading, e l'MTS, il più grande mercato europeo di titoli di Stato, creato proprio in Italia e tra l'altro fin dall'inizio considerato uno dei gioielli del Made in Italy informatico. Del resto non è il primo tentativo di fusione. Nel 2004 Deutsche Börse fece un tentativo di acquisire il London Stock Exchange, ma venne respinto. La LSE fu oggetto anche di un tentativo di scalata da parte della borsa americana dei titoli tecnologici, il Nasdaq, anche questo fallito. Ora l'approdo alla fusione porterebbe, come abbiamo detto, a uno dei più grandi mercati europei, che comprendono, oltre agli scambi azionari, anche e soprattutto quelli dei derivati. Non è un caso che questo annuncio arrivi poche ore dopo l'accordo raggiunto in sede europea per evitare Brexit, cioè la fuga della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il mondo della grande finanza, insomma, ha scelto di tagliare i ponti alle spalle e scommette su una fusione che ha bisogno di una Gran Bretagna europea. Un motivo in più, evidentemente, per votare sì al prossimo referendum inglese. Del resto è tutto il mondo dell'economia anglosassone a tifare per una vittoria del sì. Proprio oggi 200 leader di altrettante società quotate hanno pubblicato una lettera sul quotidiano Times schierandosi a favore dell'Unione Europea. Uscire dall'Unione, avvertono gli imprenditori, danneggerebbe l'economia britannica e metterebbe a rischio molte migliaia di posti di lavoro. Insomma, più chiaro di così. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, nel ringraziare appunto anche Alessandro Melli, poi andiamo alla borsa, vedo molti messaggi. Ok, allora, parliamoci chiaro, nel migliore dei mondi possibili la tassa sulla casa non c'è e non c'è neanche, e c'è una riduzione dell'IRPEF. Però siccome la tassa sulla casa si paga in molti paesi, bisogna decidere se una tassa sulla casa progressiva, e quindi, oppure si poteva fare, cosa che molti avevano suggerito, leva l'IMU per fino a una certa fascia di patrimonio immobiliare. No, se l'immobile ha un certo valore puoi levarla, dopodiché se io ho un immobile che vale 2 milioni di euro, a mio avviso è giusto che la paghi una tassa sulla casa, ok? Anche perché quello che uno va a pagare non cambia il potere d'acquisto, lo stile di vita di uno che ha una casa da 2 milioni di euro e che se l'è comprata e che ha il mutuo. Parliamoci chiaro, andate a vedere i livelli di IMU. E sarebbe giusto invece ridurre la pressione fiscale nelle fasce soprattutto basse. Potevi trovare una soluzione, levare l'IMU a tutti, secondo me è un regalo. Lo dico molto tranquillamente, ai più ricchi, fine. Si può dire? Ancora? Potevi mettere una soglia di franchigia sull'IMU per i primi 300.000 euro di valore della casa, 400.000 euro, 500.000 studia. Gli esperti lo possono dire, ma levarla a tutti, levarla anche a chi pagava magari centinaia di euro ma aveva una casa che valeva qualche milione o migliaia di euro, ma con una casa che vale qualche milione di euro, è un errore, anche perché ti leva risorse che non mi sembra stiano emergendo adesso, visto, diciamo, il rallentamento dell'economia, per fare la seconda fase, cioè quella che Renzi ha definito IRES e IRPEF, no? Negli altri paesi si decide di far ripartire l'economia riducendo le tasse a chi le tasse le paga sempre tutte, cioè i lavoratori dipendenti, privati in primo luogo e anche pubblici. Ok, meteo e pubblicità. Focus Economia. Allora andiamo sulla borsa e poi gli altri temi. Arriveremo anche alle raccomandazioni europee, da cui nascono alcune polemiche. L'Europa dice invece che dobbiamo tassare meno il lavoro e casomai avere altre forme di imposizione fiscale. Siamo d'accordo tutti che le tasse andrebbero ridotte tutte. Ecco perché ci scagliamo anche sulla spending review, che non vediamo fatta come e vorremmo, e anche, diciamo, non sulla lotta all'evasione fiscale. Guardate, c'è chi scrive: per me tassare un patrimonio è aberrante. Sì, ho capito, anche tassare il lavoro al 43% o avere una tassazione a questi livelli è aberrante, se vogliamo usare questi termini, no? Dopodiché bisogna decidere se nella vita è più importante tassare il lavoro che uno svolge o tassare un patrimonio che magari ti hanno lasciato in eredità, ma di cui, su cui non hai nessun merito. Tutto qua, sono opinioni diverse. Ma non è un retaggio del dagli al ricco, nel senso che vale anche per chi ha l'aliquota al 43%, ok? Nessuno, cioè, perché l'aliquota al 43% non è un dargli, non è una, diciamo, una vercela con i ricchi, mentre chiedere una, un po' come hanno in molti paesi di tassa sull'immobile sopra un certo livello, sopra i mezzo milione dell'immobile, invece è un modo per essere dolciniani, così citiamo Umberto Eco, e per avercela con i ricchi. Non capisco perché, non capisco perché sia giusto tassare il 50% del lavoro che uno svolge e invece sia una cosa da comunisti, dolciniani, eretici, toccare, diciamo, un patrimonio che magari tu nemmeno hai contribuito a creare, toccare come fanno negli altri paesi. Però va bene, dai. Vedo che, cioè, certo, se poi l'ipotesi è non abbiamo le tasse, basta, va bene, ovvio. Andiamo alla borsa. Meno 2% oggi Milano, meno 1,40 Parigi, meno 1,70 Francoforte, meno 1,20 Londra. E ne parliamo come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, borsa altalenanti, mi sembra che oggi gli spunti non vi siano, non è che ci devono sempre essere. Però Monte dei Paschi è nettamente, al di là della variazione, più 2% in controtendenza oggi. Sì, ci sono alcune ragioni per cui Monte dei Paschi oggi si è distinta, mentre tutto il resto del settore bancario è andato piuttosto male. Innanzitutto ci sono alcuni dati della controllata online VDBA, che al suo primo anno di attività ha raggiunto i 140.000 clienti e massa in gestione per 6,8 miliardi, dati che sono stati letti in modo positivo dagli operatori. E poi, più a livello di sistema, ci sono alcune indiscrezioni di stampa che danno un governo particolarmente attivo alla ricerca di uno snellimento delle procedure nei tribunali sui crediti non performanti, non performing loans, e anche questa è una notizia che va a toccare da vicino proprio l'istituto senese e che, insomma, oggi ha potuto così beneficiare di due notizie positive che le hanno dato un po' di spunto, rifacendo a risalire dai minimi. È un po' un buon periodo, ecco, questo per Monte dei Paschi. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli, Finmeccanica oggi si era mossa bene e poi ha ritracciato un po', più 0,50%, bene anche Saipem, oddio, siamo sempre a 35 centesimi di euro, però il titolo si è riavvicinato al prezzo dell'OPA e le banche, dell'offerta pubblica, e le banche hanno acquistato l'inoptato, cioè quello che non è stato sottoscritto agli azionisti, era il 12% del totale dell'aumento di capitale da 3,5 miliardi, no? Sì, qui a questo punto c'è il grande tema di capire cosa faranno le banche che sono entrate in Saipem con questo 12,2%, verosimilmente, come accade in questo genere di operazioni, appena i titoli saliranno sopra il prezzo a cui loro hanno acquistato, quindi questi 0,362 euro, probabilmente venderanno, e già sul mercato in tanti si domandano se non ci sia un rischio di collocamento di azioni poi sul mercato che possono deprimere ulteriormente. Però abbiamo assistito nelle ultime sedute a un piccolo rimbalzo di Saipem, e anche oggi una giornata negativa di borsa, i titoli comunque si sono comportati abbastanza bene. Per quello che riguarda Finmeccanica invece è ancora la notizia che la società parteciperà a una gara per realizzare nuovi addestratori dell'aeronautica militare insieme a un'altra società americana. È una gara di cui si conoscono ancora solo i contorni, ma qualcuno stima potrebbe valere 8-10 miliardi di dollari su più anni, per cui se Finmeccanica vincesse sicuramente una commessa importante. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, va Finmeccanica, tu citavi appunto gli addestratori, non va bene Mediaset oggi, vedo meno 2,36%, poi c'è tutto il lusso che un po' soffre, Ferragamo meno 4,40%, ma anche Moncler perde il 2,30% come Tod's, Enel Green Power meno 2,30%, Enel meno 2,40%, nonostante diciamo i dati del settore di Mediobanca sul sistema moda italiano che ricordavamo prima, ancora tra i titoli bancari Banco Popolare meno 4,20, Pop Emilia Romagna meno 3,80 e Anima Holding meno 3,50%, Fiat meno 3% come la Pop Milano, Intesa San Paolo meno 2,60, Unicredit pure, Mediobanca meno 2,5%. Allora Mediaset e poi un titolo sottile, Recordati, se ho ben visto oggi, che però si è mossa moltissimo in negativo. Sì, allora per quello che riguarda Mediaset, a penalizzare le quotazioni sono state le indiscrezioni su un possibile raffreddamento dell'interesse di Vivendi per la Pay TV Premium. In questi giorni è emerso come Vivendi si sia rafforzato nel capitale di Telecom Italia, e l'impressione un po' degli operatori è che sarà proprio Telecom Italia il centro dell'attenzione per Vivendi nei prossimi mesi. Si è già portato il gruppo francese al 22,8% del capitale della società telefonica, e a questo punto si scommette che possa rafforzarsi ulteriormente fino al 24,9%, perché poi al 25% scatterebbe la soglia per l'OPA. Per quello che riguarda invece Recordati, che ha ceduto l'8,88%, i titoli sono stati penalizzati dal fatto che ci sia stato un collocamento di un pacchetto di azioni pari al 3,2% sul mercato. Come succede spesso quando avvengono questi collocamenti di blocchi di azioni, il titolo ne risente in modo pesante. È stato così anche per Recordati, che appunto ha chiuso in calo di quasi 9%. Allora, migliore e peggiore in assoluto, Industria e Innovazione meno 10, Prelios meno 5,80, Fronte Opposto, Agronomia più 32, Di Mail più 20, Gabetti più 11%, grazie a Guido Maurino, Radio Coro, Sole 24 Ore. È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità, momenti. Allora, poi torniamo alla lettera d'Europa. Nessuno ha mai detto in questi mesi, in tema di IMU e IRPEF, che oltre al fatto di avere una tassazione che viaggia verso, veleggia nella parte alta verso il 50%, devi avere anche l'IMU. Abbiamo detto che un governo che ha pochissimi margini di manovra, perché sono 5-6 miliardi, può scegliere se ridurre la tassa sulla casa a tutti, tranne ville e castelli, che secondo noi era sbagliato, e vi parla uno che ha una mutua, pagava la tassa sulla casa, e che dei soldi che risparmierà non avrà un grosso beneficio, perché in questo modo, tra una mancata riforma del catasto, per cui ci sono persone che hanno immobili che valgono tantissimo ma per il catasto sono ancora in zone non di pregio, e il fatto di non aver messo una franchigia, cioè un tetto, uno poteva dire levo l'IMU solo per chi ha una casa del valore di mercato entro i 400-500 mila euro e poi gli altri se la pagano, ok? ha scelto di levare l'IMU per tutti, tranne appunto i castelli, ma che cavolo se ne frega, a parte il principe azzurro, voglio dire, ok? Mentre da più parti si diceva, se vuoi far ripartire l'economia, riduci le tasse sui lavoratori, su chi già le paga, ovvio che vai a ridurle lì, e magari anche sulle imprese quando assumono, cioè puoi rifinanziare il bonus. Sono scelte, ok? Sono scelte, no? Non dire che adesso tassare è giusto tassare il lavoro e non il patrimonio, abbiamo già pagato, ma cosa vuol dire? Ovvio che tutti vogliamo puntare alla riduzione delle tasse, ma se devi scegliere è una scelta. Detto ciò, traffico, e poi invece andiamo su un altro tema che riguarda il lavoro diciamo in nero, il caporalato e il rapporto di Fusoggi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Allora, il rapporto di oggi dell'European House Ambrosetti sul caporalato segnala un salario da 25-30 euro al giorno per 12 ore di lavoro, meno di 2,50 euro all'ora, e tra l'altro tra gli oltre 80 distretti agricoli italiani in cui si pratica il caporalato vedono in vari casi condizioni di lavoro indecenti, in altri casi condizioni di lavoro gravemente sfruttato, e sottraggono alle casse dello Stato circa 600 milioni di euro ogni anno. Dico subito agli agricoltori che stanno scrivendo che possono avere tutte le ragioni del mondo sul prezzo che ha raggiunto l'ortofrutta, ma le battaglie si fanno legalmente, come hanno fatto quelle del mondo del latte in questi mesi, chiedendo un diverso prezzo pagato dalla grande distribuzione quando acquista il latte in stalla. Non si fanno sfruttando 400.000 persone, di cui poi tra l'altro l'80% sono stranieri. Roberto Galullo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Devo dire che tu da anni ti occupi, tra le altre cose, di criminalità e di caporalato. Siccome alcuni dicono, beh, insomma, è l'unico modo per andare avanti in agricoltura, possiamo ricordare che il caporalato è anche fonte di ricavi per le mafie, non è solo, diciamo, un'evasione fiscale, non dico accettabile, ma insomma comprensibile, dell'artigiano, dell'agricoltore che cerca di starci dentro, ma qui stiamo parlando di mafie oltre che di sfruttamento e di assenza di diritti a livello quasi di schiavismo. Pensate agli abusi sessuali nelle donne che vengono coinvolte nel caporalato. Prego. Beh, questo è un dato di fatto, oserei dire. In moltissime regioni del sud lo sfruttamento, il caporalato è in mano alle mafie. Basti pensare a quello che succede nella piana di Sibari o quel che succede a Rosarno, dove ogni anno puntualmente si assiste ad una scia di persone, la maggior parte delle quali sono extracomunitari, che vengono appunto reclutate da questi caporali, i quali quasi sempre fanno capo a cosche mafiose di 'ndrangheta. Io vorrei sottolineare un aspetto: tu hai fatto benissimo a parlare dell'evasione fiscale, ma il paradosso di questo caporalato è che molto spesso i soldi che vengono dati, come giustamente tu dicevi, in nero a queste persone, molte delle quali sono in mano alle mafie, poi ritornano agli stessi caporali e ritornano alle, come dire, centrali che li governano, per un semplicissimo motivo: queste persone devono pagare un affitto, spesso in catapecchie misere. Io le ho visitate a Rosarno, quindi so di quello di cui vi sto parlando. Devono mangiare e acquistano spesso negli stessi posti in cui lavorano, posti limitrofi, senza dimenticare che la gran parte di queste persone purtroppo è dedito ad alcolismo, perché la disperazione è totale, la fatiscenza è totale. E altra business che viene spesso alimentato in queste zone è quello anche della prostituzione. Insomma, alla fine queste persone che, come tu dicevi, guadagnano 2,5-3 euro all'ora, ma stiamo in molti casi esagerando, a loro rimane poi alla fine poco o niente. Quindi è uno sfruttamento veramente indegno, che in moltissime parti del paese, fai bene a dirlo e a ripeterlo, è in mano alle mafie e alle organizzazioni criminali. Sì, appunto, tra l'altro c'è chi ci guadagna su questo, ma ripeto, non si può mai dire è l'unico modo per far avanzare l'agricoltura, anche perché sappiamo purtroppo che non si capisce perché, però solo per certi tipi di agricoltura e soprattutto in certe regioni d'Italia, cioè non si capisce perché chi produce latte, adesso fatta una di tutte in Lombardia, debba combattere con i prezzi che gli fa la grande distribuzione, fare manifestazioni, chiedere intervento all'associazione di categoria, ma tutto in un profilo legale, e invece se tu fai l'agricoltore al sud va bene il caporalato, ho capito bene Roberto? Sì, no, hai ragione in questo ragionamento, giustamente è giusto estremizzare, fare paradossi, perché i paradossi spiegano meglio di molte altre evidenze le cose, quindi è giusto, quello è corretto quello che tu dici, anche perché questo flusso di lavoratori che spesso, ovviamente non possiamo generalizzare, non è che tutto il sud no, ci mancherebbe, ecco. Però stiamo dicendo di zone grosse, zone consistenti di evasione di caporalato, che alimentano e che vengono alimentate, si autoalimentano di mafia. Molte di queste persone, sai da dove vengono? Arrivano dagli sbarchi che vengono effettuati sulle Le coste del sud. E queste persone che sono disperate vengono tranquillamente, possiamo così dire, con questa gente senza scrupoli, indirizzate verso le campagne della Campania, della Puglia, della Sicilia e della Calabria. Entrano in un circuito nero e spesso scompaiono. Sono dei fantasmi che alimentano non soltanto il caporalato, ma che alimentano spesso dei traffici ancora più turpi e ancora più vergognosi. Allora, grazie, è fatto bene a ricordarlo a chi pensa che sia una forma così per starci dentro nei fatturati e nei ricavi. Grazie Roberto Galullo, GR24, e poi ci occupiamo di quello che già si conoscono i punti salienti. Domani l'Europa ufficialmente ci scriverà il Country Report, lo fa per tutti i paesi, in attesa poi dell'incontro tra Renzi e Juncker venerdì. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo del cosiddetto Country Report, al di là dell'inglesismo, del nome in inglese, è il rapporto che pubblica l'Unione Europea sugli squilibri macroeconomici nell'Unione Europea, Italia compresa. Sono uscite già alcune indiscrezioni di stampa, il rapporto ufficialmente verrà presentato domani. Si segnala un'Italia che fa progressi grazie alle riforme del mercato del lavoro, delle banche e dell'istruzione, tuttavia solleva il rapporto nuovi dubbi sull'opportunità del taglio delle tasse sulla casa, ecco il perché della polemica iniziale, e così come dell'efficacia della spending review. L'Italia resta sotto osservazione assieme ad altri paesi, tra cui anche la Francia, a causa degli squilibri macroeconomici. La modesta crescita e la debolezza strutturale italiane potrebbero avere rilevanti conseguenze sulle altre economie. Questa è un passaggio del rapporto che ha fatto più discutere, come se l'Italia fosse, diciamo, un pericolo anche per le altre economie e impattare in modo avverso sulla ripresa europea e sul potenziale di sviluppo. Le nostre carenze possono ripercuotersi sugli altri se le cose vanno male, e la carenza principale, lo dico, è quella del debito. Il pieno impatto delle riforme potrà materializzarsi solo nel tempo, i primi segnali sono positivi, aggiunge il rapporto. Ci sono margini per altre azioni. Poi punta l'indice sulle inefficienze amministrative, burocrazia in primis, la giustizia civile e la lotta alla corruzione. Fare business in Italia, dice la Commissione Europea, è significativamente più difficile rispetto alle altre principali economie europee e sinora si sono visti solo modesti progressi. La capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, Patrizia Toia, dice che lo scenario che emerge da questo rapporto è uno scenario noto, e lo dice al microfono la nostra Livia Zancaner. È noto a tutti che noi abbiamo un grosso problema di debito pubblico ed è noto che questo problema non si risolve d'incanto, e l'altro aspetto che viene un pochino sollevato è quello legato al tema anche delle banche, della stabilità e del nostro sistema bancario, che ha una serie di sofferenze e ha una serie anche di grossi investimenti nei titoli di Stato. Allora, sul debito diciamo che la situazione sta migliorando e lo riconoscono anche loro, riconoscono che naturalmente ci vuole del tempo per rientrare, ma anche che la strada è cominciata, e quindi se noi avremo un po' di saldo primario in più nei prossimi anni e una serie di passaggi, ci vorranno anche un po' di anni per rientrare nel parametro del 110%, però insomma ce la faremo, non c'è un allarme, si fotografa la situazione che conosciamo, quindi questo è un tema endemico per l'Italia. Per quanto riguarda la stabilità delle banche, noi chiediamo all'Europa di aiutare il nostro sistema come gli altri sistemi, concludendo l'unione bancaria con il capitolo, il pilastro molto importante della garanzia europea per i depositi. Sul fatto che le banche italiane abbiano tanti titoli di Stato, noi l'abbiamo già detto, l'ha detto Renzi, non lo troviamo un fatto grave, lo troviamo semplicemente un punto diciamo di aiuto anche per quanto riguarda i titoli bancari, che sono anche molto sicuri, perché qualcuno fa notare che se le banche europee invece di andare sui derivati avessero preso anche quelli tedeschi, i titoli di Stato italiani, forse avrebbero maggiori certezze. Un altro punto, la competitività, cioè fare impresa nel nostro paese è più difficile. Lo sappiamo, non per il sistema industriale, ma per gli appesantimenti un po' burocratici della giustizia. Sono proprio i campi nei quali, e lo riconosce anche la Commissione, sono state fatte delle riforme. Perché su ognuno di questi capitoli la Commissione, accanto a radiografare la situazione italiana, dice che è stato avviato un processo di riforma. Si riconoscono i passi avanti, per esempio, su alcune privatizzazioni, penso a Enel e così via. Si dice che per le ferrovie è ancora troppo, l'ipotesi è ancora troppo alta, perché si vorrebbe privatizzare di più, però insomma qui è l'aspetto burocratico. Noi non crediamo che le leggi europee siano dei mantra intoccabili. L'Europa punta molto su privatizzazioni, punta molto sul mercato interno, però noi sappiamo che queste cose negli Stati vanno anche applicate con una certa libertà per quanto riguarda alcuni principi, perché noi non è che sempre privatizzazione a oltranza è un bene, se c'è di mezzo dei servizi pubblici, come per esempio quello dei trasporti, bisogna andarci anche un po' cauti. Quindi direi che fotografa alcune carenze tipiche italiane, problemi, criticità italiani, accettando i passi avanti che si stanno facendo e riconoscendo peraltro che il nostro paese ha fatto un grosso processo di riforme. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento per parlare di quello che uscirà domani, diciamo, dall'Europa, ma il giorno dopo il documento italiano per l'Europa, quello che abbiamo commentato ieri, e il tutto in prospettiva dell'incontro del Presidente del Consiglio Renzi con il Presidente della Commissione Europea Juncker a Roma. Ringrazio, dicevo, l'economista nonché editorialista del Sole 24 Ore, professor Alberto Quadrio Curzio. Buonasera. Lei è anche buonasera. Presidente dell'Accademia dei Lincei, quindi cercherò di non usare inglesismi da un lato, ma anche diciamo di essere corretto il più che posso nel mio italiano, e dall'altro vorrei ragionare di questo, poi ne parleremo, perché lei oggi scrive su Sole 24 Ore, si riferisce soprattutto al recente rapporto dell'OCSE, che c'è un'Europa delle regole che dimentica. La crescita. Partiamo dal rapporto OCSE, perché c'è una cosa che mi ha molto colpito di questo rapporto dell'OCSE, che non è un euroscettico, però dice: attenzione, nell'area euro avete una politica monetaria ultra espansiva, traduco tasse e interesse vicini allo zero, e la BCE che sta comprando titoli di Stato, dà i soldi alle banche se vogliono investire in impresa, prestare le imprese, e tasse e interesse appunto ai minimi storici, anche i tassi negativi nei depositi interbancari della BCE, prezzi del petrolio crollati, il cambio favorevole dell'euro che ha quota 1,10, quindi insomma buono, Eppure questo non sta innescando una crescita degli investimenti e dell'occupazione. Insomma, l'Ocse dice, insomma, avete le migliori condizioni o tra le migliori possibili e non riuscite a ripartire. E le spiegazioni che l'Ocse dà quali sono, professore? Ma le spiegazioni che l'Ocse dà rimangono parzialmente sospese. E tuttavia la mia interpretazione è che l'Ocse sia molto incline a suggerire una politica assai più incisiva di intervento, soprattutto sul lato degli investimenti. E a tal fine parla proprio esplicitamente del ruolo degli investimenti fatti come strumenti pubblici, una spinta pubblica agli investimenti, che sono poi la linea classica per risalire la china quando ci si trova in situazioni che io, usando una terminologia personale, ho definito di semi-stagnazione, perché tale a mio avviso si configura già in Europa. Quindi l'Ocse, pur usando una forma verbale sempre abbastanza prudente, si schiera, a mio avviso, per una spinta alla crescita attraverso il sostegno degli investimenti guidati nel settore infrastrutturale dall'intervento pubblico. E quindi lei dice, se perfino l'Ocse, pur non usando toni molto alti, dice attenzione cara Europa e cara Euro, il piano Juncker non sta producendo gli effetti preannunciati. Questo lo dice chiaramente, Sì, dice secco, no, perché proprio. Quando lo diciamo noi sembriamo scettici, ma noi sembrò fin dall'inizio scritto sull'acqua quel piano. No, e questo ha fatto bene a richiamarlo, perché lo dice in modo assolutamente chiaro. No, visto che Juncker verrà a Roma, magari ci illustrerà venerdì come, perché io veramente lo dico con la massima modestia, non l'ho capito come fanno 15 miliardi di soldi vecchi europei, perché non sono soldi nuovi, sono finanziamenti già presenti, sì, a mobilitarne 300 miliardi, cioè o ricorriamo alla leva finanziaria, ma quella proprio da Lehman Brothers, per cui un euro ne mobilita, no, nel senso che io non ho capito perché un privato dovrebbe mettere 300 miliardi, o meglio i privati dovrebbero mettere 300 miliardi, a fronte di 15 miliardi. A me sembra una foglia di fico per giustificare, per ammantare così, un amande bianco, dicono dalle mie parti. Allora, l'altra riguarda le riforme strutturali, non più avviate in maniera non uniforme, e poi gli investimenti sistemici. Dopo il traffico le chiederò, professore, un giudizio intanto anche su quello che sta emergendo di questo rapporto che domani sarà ufficiale dell'Unione Europea, che l'Italia, insomma, viene vista ancora come un elemento, diciamo, problema a livello sistemico, perché dice potrebbero avere rilevanti impatti la modesta crescita italiana sulle altre economie, e poi anche si mi unisce con quello che il governo italiano ha presentato ieri come documento che porterà di fronte a Juncker venerdì. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, traffico. Focus Economia. Allora, tra il documento europeo che non dice solo che abbiamo un rischio, rappresentiamo un rischio per la crescita degli altri paesi, plaude anche alcune riforme fatte, la riforma del mercato del lavoro, delle banche e della scuola, ma apre dubbi sull'opportunità del taglio delle tasse sulla casa e dell'efficacia della spending review. E il documento nostro di ieri, che noi personalmente abbiamo definito abbastanza morbido, cioè non c'è la richiesta di maggiore flessibilità per l'Italia, non c'è l'attacco all'Europa, io non sono d'accordo con alcune agenzie che ho visto ieri, dice semplicemente che ci sono già gli spazi per usare la flessibilità, e poi chiede Eurobond, chiede è d'accordo su un super ministro delle finanze europeo a patto che si faccia l'unione bancaria europea, che è l'altra gamba che manca, cioè se tu non hai una garanzia europea sui depositi, chiaramente garanzia privata, è ovvio che il bail-in è solo una fregatura, non so come spiegare, mette a rischio sistemico il sistema bancario. O poi tu dici che i depositi fino a 100.000 euro sono garantiti a livello dell'Unione Europea, allora ha un senso. Ma insomma, lei, secondo lei questi due documenti come possono stare assieme in vista di venerdì, il professor Quadricurzio? Secondo me il documento italiano, Padoan, è un documento molto equilibrato, non è un attacco all'Europa, però è una presa di posizione netta sulla necessità di politiche a medio-lungo termine, tanto quanto lo è quello dell'OCSE, incentrate su un forte rilancio degli investimenti. Rilancio degli investimenti che deve passare attraverso due canali. Uno, e di nuovo ci siamo, attraverso dei finanziamenti che siano di natura europea e tra le righe, perché l'affermazione è un po' distribuita nel documento, c'è anche quella frase che non va sottovalutata, che il Fondo Europeo Salva Stati deve continuare a mantenere il suo ruolo, diciamo così, di croce rossa quando qualche Stato si trova in situazioni gravi, ma deve essere trasformato in un fondo monetario europeo. Secondo me questa è un'altra affermazione che guarda molto a lungo periodo e guarda anche a un ruolo più simile alla Banca Mondiale che al Fondo Monetario di sostegno degli investimenti, che naturalmente vanno sostenuti anche con iniziative nazionali. Quindi è un documento molto improntato al medio-lungo termine, nella misura in cui si dice bene anche il cosiddetto ministro delle finanze europeo, però sempre assieme a tante altre iniziative. Il fondo per la disoccupazione, questo fondo monetario europeo, il fondo dove si parla espressamente di common bond per i movimenti migratori, per tenere conto di questo evento straordinario e via discorrendo. Quindi certo, è un documento che, se posso fare un parallelo, mutatis mutandis, che si affianca molto al documento dei cinque presidenti, che è il documento di base attraverso il quale bisognerebbe giungere a un'unione monetaria più stretta. Ma secondo lei, dopo questo documento, venerdì si otterrà qualcosa, cioè vi sarà, oppure si lasceranno con una bella stretta di mano e Juncker continuerà a fare, diciamo, l'alfiere di questa Europa e noi a dire che insomma serve uno scatto e un altro elemento per la crescita? Cioè, perché poi vedo anche gli ascoltatori, il tema è molto dibattuto, è anche noto, a me sembra abbastanza palese che in questo modo non riusciremo a agganciare una gran ripresa, no, e certamente che siamo l'unica area che non l'ha agganciata dopo il 2010, perché sì, gli altri almeno hanno avuto un 2010-2014 di sì, crescita economica. Esatto. Però secondo lei si arriverà a una forma, oppure in realtà è così, varrà solo l'aspetto diplomatico, la stretta di mano, la photo opportunity ed è morta lì? Guardi, io credo che bisogna prendere anche molto sul serio quello che ha detto l'OCSE, su cui poi io nel mio articolo sì, ho preso una posizione un po' più bilanciata, uh-huh, e cioè che la non crescita dell'Europa, perché siamo a livelli di non crescita, determina un effetto internazionale globale molto pericoloso. E questa è una presa di posizione molto dura, secondo me, sia pure letta da parte mia con delle semplificazioni e anche un po' tirata per i capelli, però c'è scritto in quel documento. Ora, secondo me, questo è un punto assai importante, perché l'Europa deve capire che non è un piccolo Stato, ma è una grande unità economica, e che come tale ha delle responsabilità anche internazionali. Quindi io penso che il governo italiano faccia bene a premere, e deve continuare a premere, e la Unione Europea io penso che dovrebbe incominciare a svegliarsi anche per le sue responsabilità internazionali, altrimenti si spera sempre che ci sia una locomotiva da qualche altra parte, una volta la Cina, una volta gli Stati Uniti, ma in questo modo si rimarrà sempre una entità minore, molto introversa e molto attaccata a delle particolarità che non sono certamente quelle che danno all'Europa uno status di potenza mondiale, potenza economica intendo dire. Quindi la stretta di mano penso che ci sarà, i mugugni penso che ci saranno da una parte e dall'altra, però io credo che la linea italiana riconfermata dal documento Padoan sia la linea giusta e che sia anche in coerenza al documento dell'OCSE. per cui lei dice c'è una responsabilità europea che anche a livello internazionale per la mancata crescita. Ma secondo lei, per concludere, professor Quadricurzio, le resistenze più grosse, adesso lasciamo stare il caso diciamo della Germania, che è anche un fronte interno, a noi sorprende molto la posizione francese, nel senso che la Francia ha una crescita sì normale, un deficit sì. alto, non ha ancora iniziato a fare le riforme. Uno dovrebbe immaginare anche un asse Francia-Italia che non si è mai verificato. A nostro avviso la debolezza dell'intera, chiamiamola così, offensiva europea di Renzi è che non ha avuto dietro nessun paese si è schierato con l'Italia, questo va detto. E questa è una debolezza, perché insomma è vero che per i principi si lotta anche da soli, però insomma quando devi fare politica estera o politica comunitaria è meglio essere con qualcuno. Ecco perché, al di là della Germania, non vorrei parlare una volta tanto della Germania, ma gli altri paesi sono così freddini, resti? Ecco, questa è un'osservazione molto giusta. La mia interpretazione attuale è la seguente: siamo in una fase di transizione. L'asse franco-tedesco è molto debole oggi, perché deboli sono sia Merkel che Olanda. L'Italia è un elemento nuovo che può scegliere, spero possa scegliere, due strade. Una, quella di inserirsi nell'asse ammorbidito, o meglio indebolito, franco-tedesco e costituire il nucleo forte della unione economica e monetaria dal punto di vista dell'economia reale. E questo è quello che io auspico anche nel mio articolo, perché mi sembra la strada più efficace, non dico che sia la più realistica, la più efficace. L'altra strada, che è quella di essere un po' il capofila dei paesi che in qualche modo non soffrono adeguatamente la primazia franco-tedesca, che però mi sembra molto molto più difficile, molto più difficile, perché in questi paesi ci sono anche dei piccoli paesi che sono molto più aggressivi della Germania dal punto di vista del rigore ad ogni costo, ma sono paesi di dimensioni talmente piccole che non hanno la importanza dell'Italia. Non so, prenda la Finlandia, capisco che è fatta di falchi, a parte che ha tanti problemi, ma è un paese che ha le dimensioni di una media regione italiana, di una medio grande regione italiana, quindi non sono quelli i nostri interlocutori. Gli interlocutori dell'Italia sono la Francia e la Germania. E considerato che quell'asse oggi è molto più debole, il governo dovrebbe avere una sua strategia per entrare invece nell'asse, che diventa poi un triangolo tedesco-germanico-italico. Vedremo, domani avremo, ripeto, se tu sarà confermato ospite, anche il responsabile della Spending Review, perché il giudizio invece è critico dell'Unione Europea sull'efficacia della nostra revisione della spesa. E mi riferisco a Joram Gutgeld. Intanto ringrazio il professor Alberto Quadricurzio e auguro a voi in ascolto una buona serata. Ci risentiamo domani, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.